Carlo, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Gianfranco Fabi. E tu non ci puoi far niente, niente. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Oggi è martedì 30 dicembre, sono qua Gianfranco Fabi per gli ultimi due giorni dell'anno, sostituisco Bruno Perini che ieri, come avrete appreso, ci ha lasciato. Ringrazio Perini per la sua opera in questo anno e mezzo, per la sua generosità, per la sua professionalità, per la sua competenza. Oggi e domani condurrò io la rassegna stampa, poi si alterneranno altri giornalisti e dal 19 gennaio vi saranno delle novità nel palinsesto, cambierà proprio la formula della mattinata, ma non vi anticipo troppo. Dal 19 gennaio sarà un lunedì di cambiamenti e tutta un po' la struttura della mattinata di Radio 24 cambierà, diventerà con maggiore attualità, maggiore freschezza, speriamo, al servizio dell'informazione, al servizio di voi ascoltatori. La rassegna stampa di oggi non può che cominciare con i titoli che dominano sui giornali questa mattina e sono Gaza, l'orrore della guerra, i tentativi di gli sforzi diplomatici per bloccare questo conflitto e le tensioni all'interno del Medio Oriente che si riflettono anche su tutto il fronte globale. Israele, rovesceremo Hamas, è il titolo di Repubblica. Nei bombardamenti oltre 350 morti e 1400 feriti, Napolitano chiama Peres. Oggi vertice UE a Parigi, la Francia tenta la mediazione. Ecco, il tema di fondo è proprio perché questa guerra La linea che tutti i giornali portano è il fatto che Israele vuole rovesciare, vuole annientare Hamas, vuole annientare questo gruppo di potere che appunto è il potere a Gaza e che è il gruppo che vuole contrastare fino in fondo lo stesso diritto di Israele di esistere. Tutti i giornali hanno delle riflessioni su questo fronte. Morire per Gaza è il titolo del Riformista, più di 320 le vittime dei raid aerei. Israele, cancelliamo Hamas, è il titolo della Stampa, oltre 320 palestinesi uccisi, quindi questo è il leitmotiv. Però come riflessione avrei scelto l'unità ha il volto con due occhi in primo piano, il titolo è Gaza ci guarda, l'inferno palestinese, ancora raid, ancora morti civili, Israele dice guerra totale per annientare Hamas, il mondo resta inerte. Ed è il vice direttore dell'unità, Giovanni Maria Bellu, che scrive: ieri nelle redazioni c'era un'ampia scelta di immagini della strage di Gaza, macerie, case sventrate, corpi mutilati, una madre che tiene in braccio il cadavere del suo bimbo, un padre che invece leva verso il cielo il piccolo corpo avvolto in un lenzuolo e lancia un grido in cui non si vede la fine. C'è anche la foto che vedete in copertina, una giovane donna che guarda davanti a sé mentre alle sue spalle divampa un rogo. Abbiamo scelto quella, Giovanni Maria Bellu, vice direttore dell'Unità. Certo, può apparire velleitario, contraddittorio. Cosa significa Gaza ci guarda? Ieri l'Unità non aveva in copertina l'immagine di George Bush, ritratto dopo l'ennesimo summit sulla questione palestinese, l'ennesima pace fallita. Dunque, che cosa può fare con i suoi occhi uno di noi, se persino i più potenti della Terra, con tutte le loro armi, sono del tutto impotenti? In fondo, continua Giovanni Maria Bellu, vice direttore dell'Unità, è solo una questione di sguardi. C'è quello della giovane donna palestinese e c'è il nostro, che può liberamente dirigersi ovunque, può volgersi dall'altra parte, può fermarsi per trovare in quegli occhi la memoria del dolore e della paura. È una fatica di pochi secondi, ma vale la pena di farla. Il tempo, anno dopo anno, sta portandosi via gli italiani e gli europei che hanno memoria diretta della guerra. Corriamo il rischio di considerare come una condizione naturale e non una conquista da rinnovare tutti i giorni il benessere e la pace. Siamo addirittura disposti, per coltivare l'illusione dell'eternità del nostro privilegio, ad assistere in silenzio a sistematiche violazioni di quei diritti fondamentali che dopo l'ultima delle nostre guerre avevano scolpito nella Costituzione e nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ecco, questo era Giovanni Maria Bellu che spiegava sull'Unità la scelta di questa foto che domina la copertina del giornale, appunto due occhi che ci guardano sullo sfondo delle macerie in fiamme, due occhi che ci guardano e che chiedono appunto l'intervento, in fondo l'impegno, la condivisione almeno da parte del mondo di questa tragedia. tragedia, questa tragedia, perché la guerra è sempre una tragedia. Anche il Manifesto ha una foto molto simile, due occhi di un bambino che guardano attacco mirato, il nostro sarà un attacco mirato, aveva detto il ministro della difesa, dopo tre giorni si contano più di 350 morti, secondo l'ONU 57 sono le vittime civili, come 8 i bambini palestinesi uccisi dai raid aerei a Jabalia e Rafah, distrutti l'università islamica e il ministero dell'interno di Hamas, carri armati al confine verso l'attacco da terra, i razzi di Hamas uccidono 3 israeliani. Il commento sul Manifesto è affidato a Yosef Halevi, la sicurezza di Israele, eterna bugia. Basta questo titolo per dire appunto la posizione del Manifesto su questo fronte. Ma sul fronte diplomatico è interessante un articolo di Vittorio Emanuele Parsi, sempre sul fronte della guerra che è in corso tra Israele e Hamas, che parla del risveglio della Germania e sul fronte delle possibilità della diplomazia internazionale e in particolare dell'Europa di intervenire in qualche modo per riuscire a imporre innanzitutto una tregua, ma soprattutto una prospettiva di pace di cui peraltro si parla da tanti anni, ma di cui non si è ancora riusciti a vedere una soluzione. E il risveglio della Germania di Vittorio Emanuele Parsi parla proprio del fatto che l'Europa, pur con tutte le sue indecisioni, pur lasciando appunto adesso il semestre di presidenza francese di Nicolas Sarkozy, che ha avuto dei punti di forza come la partecipazione alla soluzione della crisi della Georgia, ma anche dei punti di debolezza come il lancio mancato di un'unione euro-mediterranea, ecco, in questa fase la Germania potrebbe prendere il posto appunto all'interno dell'Europa per giocare un ruolo decisivo. Scriveva Vittorio Emanuele Parsi su La Stampa: il segnale mandato a Obama al suo segretario di Stato Hillary Clinton sembra indicare che l'Europa è pronta a assumersi maggiori responsabilità e a giocare un ruolo più importante in Medio Oriente, spazzando innanzitutto il campo da quelle differenze di sfumature che spesso si sono prestate a qualche ambiguità, a cominciare da quelle riguardanti il sostegno convinto ad Abu Mazen e il rifiuto di considerare Hamas un interlocutore possibile, fino a quando non si dimostrerà responsabile e rispettoso del diritto di Israele ad esistere. Come noto, la Germania fa parte di quel terzetto europeo incaricato di cercare di stabilire le precondizioni per un dialogo diretto tra USA e Iran sulla questione del programma nucleare iraniano. Una Germania, conclude Vittorio Emanuele Parsi sulla Stampa, meno cerchiobiottista a Gaza potrebbe contemporaneamente trovare più ascolto a Gerusalemme e a Washington nel tentare fino all'ultimo di scongiurare pericolose opzioni militari e chiarire a Teheran che giocare la carta di una possibile spaccatura occidentale potrebbe rivelarsi una tragica illusione. Il risveglio della Germania, quindi, era questo articolo, questo commento di Vittorio Emanuele Parsi sulla Stampa. Rovesceremo Hamas è anche il titolo del Messaggero, l'ONU stop alle vittime civili e tregua subito, Napolitano chiama Peres. C'è un'intervista sul Messaggero, il generale Gazit, generale che è stato a capo dell'intelligence israeliana, è convinto che il conflitto finirà solo quando Hamas accetterà non un'altra tregua di 6 mesi, ma una sorta di cessate il fuoco permanente. E Israele non può convivere con una pioggia costante di missili sulle sue comunità. Cosa ci importa a noi se alla fine dell'operazione Hamas resta con 500 missili piuttosto che con 1400? E Gazit, che è appunto un generale israeliano, è convinto che sia probabile un'azione di terra, ma la teme, ci saranno molte vittime sia da parte loro sia da parte nostra. L'intervista è sul Messaggero. Anche altri giornali hanno appunto in prima pagina, cioè quasi tutti gli altri giornali hanno in prima pagina le vicende della guerra di Gaza, così come tutti i giornali hanno, però su un fronte diciamo più provinciale, più vicino, il tema della bufera su Di Pietro, con l'abbandono da parte del figlio dell'onorevole Di Pietro del partito, ma non delle cariche. tutti i giornali, vi dicevo, aprono con la guerra. Libero infatti dice: carri armati pronti, guerra, ci risiamo. Israele, dopo l'attacco aereo, si appresta a dare il colpo di grazia ai terroristi. E il commento, l'analisi è di Oscar Giannino su questo fronte, e Oscar Giannino scrive: Olmert, proprio per la sua relativa debolezza, non avrebbe potuto scatenare le forze aeree contro le sedi di Hamas a Gaza se non fosse stata Hamas a rompere la tregua dell'ultimo mese. Facendo riprendere ad Hamas il tiro di missili contro le città israeliane, Teheran ha tentato di porre di fronte al fatto compiuto il nuovo governo israeliano che nascerà a febbraio. La presidenza Obama e i paesi arabi moderati come Egitto, Giordania e Arabia Saudita. Con Israele l'orologio sarebbe tornato indietro al puro scontro terroristico, delegittimando definitivamente al-Fatah e pregiudicando anche i contatti riservati che Bashar al-Assad da quasi un anno ha intessuto con Gerusalemme via Ankara, per la restituzione delle alture del Golan in mano israeliana dalla guerra del 67 alla Siria in campo della pace con Israele. E continua Oscar Giannino su Libero: accettare questa prospettiva per un governo israeliano di qualunque colore significa ammettere come unico scenario per il proprio futuro quello dell'olocausto. Per questo Olmert non ha potuto che lanciare l'opzione militare, i cui obiettivi sono tre. Il primo è eliminare direttamente il maggior numero di capi militari di Hamas. Ma se questo è l'obiettivo militare di Olmert, se quello politico è ridare spazio ad al-Fatah, all'Egitto e a chi vuole un confronto diplomatico e non terroristico, quello strategico è un altro: ammonire l'Europa e Washington che Teheran, che sarà governata dagli eredi dell'antisionismo nazista e per di più con la bomba atomica a portata di mano, è una minaccia non solo per Gerusalemme e per gli ebrei, è un'insidia letale per tutti. Ecco, il tono di fondo di tutti questi commenti che abbiamo visto, sia sul fronte di sinistra, sia l'Unità e Manifesto, sia sul fronte di Libero e degli altri giornali, è che comunque la guerra in corso è una guerra che rischia di ampliarsi, che rischia di comprendere anche altri paesi, che vede in prima linea, anche se per ora solo come sostegno esterno, paesi come l'Iran che giocano le loro carte e che sono paesi appunto che, in cui i fondamentalisti hanno il potere attualmente, che quindi anche per questo costituiscono un pericolo. Ci fermiamo un secondo per dare spazio a un secondo addio all'anno più lungo. Il primato è l'articolo di Piero Barucci sulla Stampa. A molti il 2008 sembrerà più lungo per via dei guai economici, ma la sua durata sarà davvero un record. Ai 366 giorni dell'anno bisestile, a mezzanotte del 31 dicembre si aggiungerà un secondo per mettere d'accordo la rotazione della Terra con gli orologi atomici. Un secondo in più per maledire la crisi e attendere il 2009. Lo ha stabilito l'Ufficio Internazionale dei Pesi e Misure di Parigi, d'accordo con il Naval Observatory di Washington. Per l'Italia provvederà la correzione dell'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica di Torino. Ma è così importante una misura del tempo? Si chiede Piero Bianucci sulla Stampa. Silvestro Reschiutta, già presidente dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris, ci ricorda un curioso esperimento. Il 17 luglio del 1965, nella cittadina americana di North Conway, tutti gli orologi furono requisiti, quelli pubblici fermati, zittite radio e TV. Il primo giorno non ci furono problemi gravi, ma già al secondo iniziarono le difficoltà, la gente diventò nervosa e il drugstore esaurì le scorte di tranquillanti. Il terzo giorno l'esperimento fu sospeso. Questo per dire, era Piero Barucci sulla Stampa, che abbiamo bisogno di misurare il tempo, che il tempo è importante, anche un secondo in più può essere importante, in un secondo si possono scatenare tante cose e bisogna stare attenti anche ai secondi. Ora che l'anno sta finendo, riflettere sul tempo forse non è male. Ma torniamo ai fatti di cronaca, torniamo ai dati politici. Una notizia c'era da il riformista De Profundis: Rifondazione Comunista è morta, lo scrive Ritanna Armeni. E sapevamo che Rifondazione Comunista non stava molto bene, ma che fosse morta ci giunge di sorpresa, scrive Ritanna Armeni. Ci sono articoli che si scrivono con imbarazzo e con qualche sofferenza, questo è uno di quelli, per chi ha creduto per anni in un progetto politico radicale e avvincente come quello che ha portato alcuni anni fa alla nascita del partito di Rifondazione Comunista. Non è facile comunicare un'analisi e una percezione dimostrazione netta che la porta a dire che quel progetto è morto. Quel che mi spinge a fare oggi, scrive Ritanna Armeni sul Riformista, è un'affermazione tanto drastica, è la vicenda Liberazione. Il tentativo di chiudere l'esperienza di quel quotidiano attraverso un editore discusso e normalizzatore o attraverso il diktat del partito mi pare davvero l'atto di chiusura di un'esperienza politica importante, sia per chi ha creduto e partecipato, sia per la storia politica del paese. Ritanna Armeni sul Riformista ci dà questa notizia della fine di un'esperienza di Rifondazione Comunista. Ovviamente è un giudizio politico sul fatto che l'esperienza appunto di Rifondazione Comunista sia ormai al capolinea. Sempre di politica è l'apertura del Il Giornale di Pietro Junior: si dimette, ora tocca a Tonino. Sommerso dalle critiche per i suoi rapporti ambigui con uno degli arrestati dell'inchiesta di Napoli, il primogenito dell'ex PM lascia l'Italia dei Valori, ma non il posto in provincia. E agli elettori non basta, scrive Il Giornale, una farsa. E il commento, l'editoriale di Vittorio Macioce, la maschera del figlio, ne leggiamo solo la conclusione: Cristiano Di Pietro può anche restare al suo posto, è il padre che deve spiegare ancora qualcosa. Chi è la talpa che lo ha informato dell'inchiesta? Lui prima ha detto di non sapere, poi ha tergiversato, ha buttato lì un cera sulle agenzie. L'unica cosa certa è che Tonino ha subito trasferito Mautone a Roma, ha chiuso i telefoni, ha detto al figlio di non parlare più con il provveditore, silenzio, tutti sotto coperta. Era il 29 luglio del 2007, nessuna agenzia aveva mai raccontato quella storia, solo uno spiffero arrivato a Roma, a casa di Di Pietro, da qualche parte. La chiamano fuga di notizie, chissà, un favore tra ex colleghi. No, scrive Vittorio Macioce su Il Giornale, no, davvero il caso non è chiuso, Antonio Di Pietro non può pensare di cavarsela così, offrendoci la testa del figlio. Questa è l'interpretazione del Giornale sulla vicenda Di Pietro, una vicenda che occupa la prima pagina, anche se solo sul giornale, con un titolo di così in rilievo di tutti gli altri giornali, anche infatti Repubblica. Di Pietro Junior lascia l'Italia dei Valori, il partito, il Polo della Libertà dice non basta, e anche su altri giornali li stiamo vedendo, appunto bufera su Di Pietro, scrive Il Messaggero, il figlio lascia l'Italia dei Valori, caso De Magistris, la Cassazione, va trasferito il procuratore di Salerno. Questo era Il Messaggero, ma passando al Messaggero, proprio sotto questo titolo c'è un articolo di Marida Lombardo Pigiola che dice: ragazzi drogati al volante, l'allarme cresce. Ed è una riflessione interessante, importante, che merita fare sulla vicenda, che sul dramma che ha colpito sabato notte quattro ragazzi che sono morti sulla strada in un incidente stradale, un quinto in fin di vita ed era il guidatore di quella macchina. I vuoti si assomigliano, scrive Marida Lombardo Pigiola. Puoi non capire che per te è finita, che muori se scivoli da un vuoto a un altro vuoto, dalla vita alla morte, con i neuroni stuprati dalla droga. Puoi aver scordato che il sabato notte per strada c'è una guerra, banale e terribile come le morti, e fa morti, anche i tuoi genitori sembrano ignorarlo, altrimenti alle 8 del mattino saprebbero dove ti trovi, invece di correre con altri 300 genitori all'obitorio per controllare se tra gli utenti col cellulare spento che sono caduti in guerra stanotte ci sei tu. E ancora sul Messaggero: e puoi non accorgerti di nulla se voli con l'auto per 25 metri giù da un viadotto insieme ad altri 4, come volavi nella nebbia di uno sballo poco prima, se il tempo della morte ti frantuma le ultime sequenze in piccoli segmenti aguzzi che sfondano il cervello, come aveva fatto il tempo della droga poco prima, e non capisci e non ragioni e ti lasci scappare la vita, non riesci a trattenerla. È una riflessione di Marida Lombardo Pigiola sui ragazzi drogati al volante, sul fatto di delle famiglie che vivono questo dramma, che non sanno dove sono i figli il sabato sera. Ecco, anche su questo verita una riflessione, lo faremo anche a Radio 24 più tardi alle 9 in viva voce, discuteremo con esperti di questo tema, il fatto delle famiglie, di queste famiglie, di questi giovani che cercano l'illusione appunto dello sballo e purtroppo ogni tanto perdono la vita. Torniamo alla politica, torniamo alla politica e alle problematiche legate alle misure, che sono in discussione per affrontare la crisi economica, per affrontare per adottare appunto gli interventi necessari a superare la crisi. Lo facciamo con l'editoriale del Corriere della Sera, un editoriale firmato da Michele Salvati, un editoriale in cui si ragiona appunto non solo sulle prospettive della crisi, ma anche sulle possibilità di intervento e sul modo, sul metodo dell'intervento necessario. E questo editoriale di Salvati si intitola Governo e opposizione, la distensione necessaria. E scrive Salvati in conclusione del suo articolo: una situazione di reciproca demonizzazione, di lotta esasperata, di raccolta di tutte le forze che consentono di battere l'avversario e conseguire il premio elettorale non contribuisce a formare governi coerenti e a creare un'atmosfera in cui è agevole affrontare le riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno. Riforme che spesso esigono la condivisione o quantomeno la tolleranza da parte delle opposizioni. Condivisione e tolleranza oggi più facili per l'attenuazione dello scontro ideologico e premessa indispensabile affinché l'azione riformatrice possa essere proseguita sugli stessi binari nel caso che l'opposizione dovesse prevalere nella successiva tornata elettorale. E ancora Michele Salvati sul Corriere della Sera: auspicare che l'esasperazione polemica si attenui non è solo un innocuo buon proposito di fine anno. In molti campi, in materia di federalismo, di pubblica amministrazione, nella stessa istruzione pubblica e in altri ancora, ci sono forze della maggioranza e dell'opposizione che già stanno cooperando al fine di definire le riforme di cui il Paese ha bisogno. E nello stesso Partito Democratico lo spirito del Lingotto sembra aver ripreso a soffiare. Sta soprattutto al Presidente del Consiglio indirizzare l'azione di governo in modo tale da favorire una reciproca distensione. Predicare ottimismo è doveroso, conclude Michele Salvati, ma affinché queste prediche abbiano una consistenza un po' maggiore degli Allegria di Mike Bongiorno, sarebbe opportuno non alimentare sospetti e preoccupazioni nell'opposizione, sempre tentare ad uno scontro frontale, con annunci estemporanei di possibili riforme costituzionali in senso presidenziale o con altre uscite di simile tenore. Era Michele Salvati sul Corriere della Sera, che richiamava appunto in questo editoriale l'esigenza di avvicinare maggioranza e opposizione per adottare delle formule e dei processi di governo che possono affrontare i problemi del Paese. E per questo, Salvati ricorda, è importante non fare salti in avanti, non allargare il fossato, le divisioni tra maggioranza e opposizione. Questo vale sia per la maggioranza sia per l'opposizione, ma il richiamo a Berlusconi e alle proposte di presidenzialismo in questa fase era evidente ed esplicito sull'intempestività in questa fase appunto di proposte che non vadano al cuore dei problemi. E alla necessità appunto di affrontare i temi dell'economia fa riferimento Tito Boeri in un'analisi su Repubblica, come commento anche all'allarme del Fondo Monetario: più interventi o sarà grande depressione. Fino a un anno fa, scrive Tito Boeri, il Fondo Monetario Internazionale sembrava un'istituzione senza futuro. I maggiori debiti contratti negli anni precedenti dai governi, soprattutto Brasile e Argentina, erano stati ripagati e molti paesi emergenti detenevano una quantità di riserve in valuta estera tale da rendere assai improbabile il loro ricorso a un prestatore di ultima istanza come il fondo. In molti dunque, non solo in Italia, decretavano la crescente irrilevanza del fondo, che invece la crisi globale ha riportato al centro della scena. E il Tito Boeri conclude il suo intervento appunto passando dall'analisi della realtà e del peso del Fondo Monetario Internazionale a quello che dovrebbe fare il governo italiano. Le implicazioni più rilevanti per il nostro paese riguardano soprattutto la qualità degli interventi. Devono essere, oltre che consistenti, tempestivi, duraturi, sostenibili e contingenti, il che significa che non ci si deve affidare a misure estemporanee e si deve lasciare intendere che si interverrà ancora, se necessario, nel caso in cui la crisi peggiorasse. È un impegno che deve essere credibile per migliorare. È un impegno che deve essere credibile, per migliorare le aspettative di famiglie e imprese che oggi volgono al peggio. Utile sottolineare che la parte più consistente delle misure anticrisi varate dal nostro esecutivo, il bonus famiglia, la social card, i fondi in deroga per la cassa integrazione, sono per definizione una tantum. La nota nel fondo valuta anche pro e contro di misure specifiche, suffragata dall'esame di 5 grandi crisi: la grande depressione del 29, la crisi degli anni 80, la grande crisi dei paesi nordici degli anni 90-94, la crisi bancaria giapponese del 97 e quella della Corea sempre nel 97. Il principale suggerimento è quello di puntare su trasferimenti diretti alle famiglie che hanno vincoli di liquidità, come ad esempio sussidi dati a chi perde il lavoro. Questo tipo di trasferimenti infatti ha maggiore probabilità di tradursi in consumi aggiuntivi piuttosto che risparmi a scopo precauzionale. Si bocciano invece senza mezzi termini gli interventi generalizzati a sostegno di specifici settori industriali, come pure le misure poco trasparenti di detassazione dei profitti, ad esempio attraverso un ammortamento accelerato di investimenti. Il nostro governo, conclude Tito Boeri, farebbe molto bene non solo ad ascoltare il messaggio del fondo, ma anche a valorizzarlo presso gli altri leader del G20. Abbiamo tutto da guadagnarci dalla sua attuazione. Era Tito Boeri in questo avviso ai governanti sulla Repubblica, sulle misure contro la crisi. Ne parleremo tra poco anche citando un articolo di Alberto Quadricurzio sul Corriere della Sera, ma abbiamo parlato in conclusione poco fa dell'articolo di Tito Boeri su Repubblica, sulle misure da prendere per affrontare la crisi. Ne riflette anche Alberto Quadricurzio sul Corriere della Sera. Infrastrutture e sostegno ai ceti più deboli. L'Italia, scrive Quadricurzio, cerca di contrastare la crisi con vari provvedimenti, tra cui un sostegno alle fasce deboli della popolazione, il rilancio delle infrastrutture, un ampliamento degli ammortizzatori sociali, un eventuale accorciamento della settimana lavorativa e altri ancora. Molti sono convinti di avere una ricetta migliore, anche perché poi non la dovrebbero progettare e attuare. È possibile che ci siano situazioni migliorative da elaborare in un contesto di razionale pragmatismo, distinguendo quindi il fattibile dal desiderabile. E sostanzialmente Quadricurzio apprezza le misure, soprattutto la social card, che dà maggiori disponibilità di spesa alle famiglie più povere, e la spinta agli investimenti in infrastrutture con una domanda pubblica che si traduca in maggiore efficienza della nostra dotazione appunto di infrastrutture. E conclude Quadricurzio: in conclusione, il sostegno delle fasce più deboli della popolazione è necessario, e non solo per la coesione sociale, mentre per gli investimenti infrastrutturali lo sono per l'occupazione e per aumentare l'efficienza dell'economia. La direzione di marcia ha quindi una sua solidità, una direzione di marcia quindi che è fatta di sostegno in questa fase, di sostegno soprattutto alle fasce deboli, cercando di tenere alti i consumi e soprattutto cercando di superare questa fase di crisi per riavviare la crescita. Le misure necessarie hanno dato luogo nei giorni scorsi anche a una certa polemica dopo l'annuncio, per esempio, del Cardinale Arcivescovo di Milano di un fondo di solidarietà lanciato dalla diocesi per aiutare appunto le famiglie in difficoltà. E su questo tema c'era stato un intervento del Ministro Brunetta, che diceva la Chiesa potrebbe fare di più. Risponde a Brunetta l'editoriale di Avvenire: quel bisogno di coesione, non di schermaglie. Il signor Ministro si risparmia, ed è firmato da Davide Rondoni. Rondoni scrive: il Ministro Brunetta ha detto su alcuni giornali che a fronte dell'emergenza sociale sul tema del lavoro e rischio povertà la Chiesa potrebbe fare di più. Se in queste parole c'è un invito a darsi da fare maggiormente, lo si accoglie con sincero ascolto, ci mancherebbe. Ognuno oggi, nella situazione in cui siamo, è invitato dai fatti a spendersi un po' più per i bisognosi. Ma se le parole del Ministro, scrive Rondoni su Avvenire, volevano essere una sferzata alla Chiesa, una risposta all'iniziativa milanese del Cardinale Tettamanzi, quasi a volersi riprendere in modo un po' brusco una presunta esclusiva sul tema, beh, allora c'è qualcosa da puntualizzare. In ogni caso, conclude Davide Rondoni, alla Chiesa italiana non interessa certo alimentare polemiche tanto vaghe quanto sterili. I fatti parlano da soli, ed è da essere dalla vicinanza alle tante crescenti situazioni di difficoltà a cui è costantemente vicina che essa trae l'invito a non diminuire l'impegno. Il Papa puntualmente, senza timore né volontà di rimproverare nessuno, ha invitato tutti a essere uomini fino in fondo e dunque attenti al bisogno. Sono quelle le parole che davvero contano, non certo le estemporanee battute di un politico in cerca di applausi. E quindi una sottile polemica sull'intervento di Brunetta da parte dell'Avvenire. Anche Libero ha un editoriale del direttore Vittorio Feltri che si sofferma sul fatto di aiutare i poveri. Come aiutare i poveri? Quali le misure necessarie? Senza i preti chi li aiuta? Scrive Vittorio Feltri e afferma in conclusione del suo articolo: premetto, dice Feltri, sono miscredente eppure clericale, mi fido più di un curato che di un assessore. Ho verificato che il governo al massimo regala la card, ma la burocrazia ne mangia 2 su 3. D'altronde Tremonti non può correre appresso ai singoli poveri. Ciò che non si comprende e l'indifferenza della politica verso l'attività caritatevole degli scodellatori di minestra, tutt'al più sopportata, mai apprezzata, mai finanziata. Non c'è la consapevolezza che dove lo Stato non riesce a assistere subentrano loro, i preti. Perché non aiutarli? Si chiede Vittorio Feltri su Libero. Se la crisi si aggraverà, i barboni aumenteranno come in 30 anni sono aumentati i drogati. Che i CERT, gli enti pubblici, rimpinzano di metadone utile a stabilizzare la dipendenza. Solo le comunità, in maggioranza della Chiesa, recuperano i tossici, o almeno ci provano. Soltanto i religiosi si dannano per servire un pasto caldo a chi dorme tra due brandelli di cartone mentre il termometro scende sotto lo zero. Lo so, conclude Vittorio Feltri su Libero, Tremonti non ha i soldi, deve battagliare contro il debito pubblico, ma se darà qualche euro ai preti, come gli ha dati Tettamanzi, arcivescovo di Milano, che pure mi è antipatico, scrive Vittorio Feltri, saranno bendati e non gettati nel calderone delle card e dei contributi divorati dagli evasori. Basta poco e la crisi che crea nuovi poveri sarà più lieve. L'editoriale di Vittorio Feltri su Libero, un editoriale appunto che richiama l'esigenza di una solidarietà, di aiutare chi aiuta i poveri. Vorremmo aggiungere che tutto quello che può aiutare i poveri può essere benvenuto da qualunque parte provenga e che non ci dovrebbero essere appunto polemiche, perché chi fa di più è meglio. Tutti dovrebbero fare un po' di più e dovrebbero cercare di fare un po' di più, soprattutto quando la povertà è vicino a noi, è vicina nelle grandi città, di cui peraltro ci parla l'editoriale del Sole 24 Ore, il declino delle metropoli e le richieste dei cittadini. Salvatore Carruba riflette sulla classifica della qualità della vita, ne abbiamo parlato anche ieri, classifica della qualità della vita che ha messo al primo posto Aosta, ma che ha fatto scendere di qualche livello in classifica Milano e Roma. Il Sole 24 Ore, lo ricordo, ha allegato oggi un dossier sul risparmio, ma di questo parleremo alle 8:30 indietro la notizia. Torniamo alle qualità della vita. Da qualche anno lo stesso destino sembra appaiare le due maggiori città italiane, scrive Salvatore Carruba nell'editoriale del Sole 24 Ore, quantomeno a reggere i risultati dell'annuale indagine sulla qualità della vita condotta dal Sole 24 Ore. L'anno scorso Milano e Roma, quest'ultima artefice del 2007 di un sorprendente balzo all'insù, sedevano entrambe nel plotone di testa delle prime 10, rispettivamente al sesto e ottavo posto. Il capoluogo lombardo vi compariva stabilmente dal 2002. Nella graduatoria pubblicata ieri invece entrambe perdono posti e scendono al 20° e 28°, una posizione in assoluto più che dignitosa, ma assai distante dai record precedenti e soprattutto dalle attese e dalle ambizioni che la storia, le potenzialità e le prospettive di queste città giustificherebbero. E continua Salvatore Carruba, entrambe si possono consolare notando che il proprio posto resta incommensurabilmente distante e migliore da quello di tante altre grandi città come Torino 66°, Bari 93°, Napoli 97° o Palermo penultima. Milano in particolare può compiacersi che nonostante tutto l'indice di felicità personale dei propri abitanti non solo sia tra i più confortanti, 25°, ma addirittura superiore a quello relativo alle città campione, Aosta, nonché di gran lunga a Roma al 72° posto. Roma e Milano poi restano, dopo Firenze, le città più desiderate per viverci. Non tutto è ombra, dunque, nelle condizioni delle grandi metropoli italiane. Milano resta campione assoluta negli indicatori relativi al tenore di vita, mentre la capitale perde quota. Entrambe manifestano miglioramenti, più evidenti per Milano, per servizi, ambiente e salute, ma peggiorano vistosamente, soprattutto a Milano, per affari e lavoro. Mantengono la maglia quasi nera per l'ordine pubblico, arretrano negli indici di popolazione, vedono incrinato il tradizionale primato della cultura. Milano, per esempio, non è più in testa per gli acquisti di libri. L'indagine del 2008, prosegue Salvatore Carruba, dunque sembra mettere in luce un generalizzato peggioramento della condizione di vita nelle grandi aree metropolitane che subiscono una concorrenza sempre più accentuata da parte di città medio-piccole, soprattutto del centro-nord, che appaiono in grado di mantenere negli anni capacità di miglioramento costante che le rendono più attrattive e dunque più competitive. Ecco, notavamo proprio ieri, qui era Salvatore Carruba sul Sole 24 Ore, notavamo proprio ieri nel nostro dibattito dietro la notizia come questa arco alpino che comprende appunto le città che sono in testa alla classifica, da Sondrio ad Aosta, da Aosta soprattutto al primo posto, ma anche Sondrio, Bolzano, Trento, Belluno fino a Trieste, ecco, sia un po' il denominatore comune di una realtà di piccole città che sono città dinamiche in cui si vive bene anche per la dotazione di servizi e per la funzionalità della pubblica amministrazione. Non a caso in queste grandi aree aree, in queste aree appunto del nord ci sono regioni a statuto speciale, regioni a statuto speciale che ci sono anche al sud, ma con ben diversa efficienza. Ma concludiamo con l'articolo di Salvatore Carrubo: un'attenzione particolare merita Milano, la città che si è candidata a ospitare l'appuntamento planetario dell'Expo e che giustamente vuole cogliere questa opportunità per trasformarsi completamente e ridefinire la propria proiezione nel mondo. Quindi vedremo nel prossimo anno come si comporterà Milano. Ma concludiamo questa rassegna con un titolo interessante di Repubblica: 2 miliardi di auguri, si avvicina il Capodanno, i 2 miliardi di auguri sono quelli che arriveranno attraverso gli SMS. Da qualche anno a questa parte, scrive Ettore Livini su Repubblica, la colonna sonora delle feste degli italiani, Capodanno compreso, è un martellante motivo mononota, suonato senza sosta dai cellulari di tutta la penisola, la valanga degli auguri via SMS. Al giro di boa del millennio, tra il 25 dicembre e il 1 gennaio del 2000, ne erano partiti 100 milioni, sembravano tantissimi. Quest'anno, solo tra vigilia e giorno di Natale, sono stati quasi 1 miliardo, il 20% in più del 2007. Uno tsunami di baci e abbracci virtuali destinato ad andare in replica alla mezzanotte di domani, quando tra zamponi e lenticchie la contabilità delle autorità telefoniche, secondo le stime dei gestori nazionali, dovrebbe aggiungere un altro miliardo di SMS, portando il record dei 2 miliardi, il totale di questi giorni di vacanza, una quarantina in italiano. Si conclude qui con questa lettura e non con un SMS la nostra rassegna stampa. L'appuntamento per gli ascoltatori è 8:30 per Dietro la Notizia. La rassegna stampa con me torna domani. Grazie.